Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8 e 19 minuti, caro Oscar. In questo martedì 9 febbraio, caro Alessandro. L'ascoltatore si lamenta e dice: ma li leggete gli sms di saluti? Per favore rispondi. Ecco, non so che saluto ci aveva mandato, però noi stiamo rispondendo. Rispondiamo al per favore rispondi agli sms di saluti. Rispondiamo oggi. Grazie. C'è una grande raffica di santi molto significativi. Ah. C'è una santa che a me è molto cara, perché è una santa che è una tra le patrone di noi contribuenti tartassati. Sì, sì. Perché infatti è raffigurata come nelle sue icone, per chi la venera, no? Con una tenaglia in mano che tiene un dente estratto, perché lei hanno tentato di ucciderla, questa santa martire, levandole i denti, senza farle ovviamente l'iniezione. Ma non ti estraggono i denti al fisco. Santa Polonia. Soldi ti prendono. Sì, no, ecco. Santa Polonia è per noi poveri contribuenti una grande. Per le tenaglie. Pensa. E lei però è rimasta viva. È la stessa tecnica ancora dell'età. La tecnica dell'agenzia. Ti leva, dice: tanto non muori, me ne dai degli altri. Però detto questo, poi ce ne sono degli altri. C'è San Sabino, per esempio, che è il protettore dai veleni. E anche questo è un santo che molti politici venerano. Molti politici venerano. Perché dice così almeno la facciamo franca, per così dire. Anch'io conosco molti Sabini, a dirti la verità. Nel sud, nel centro-sud, il nome è di una certa. Poi c'è Sant'Asberto, San Rinaldo, eccetera, eccetera. Però i due fondamentali sono il protettore dai veleni e Santa Polonia. Per favore, prega per noi contro l'agenzia delle entrate. C'è questa grande notizia che oggi viene annunciata dai giornali, che dopodomani c'è questa conferenza stampa congiunta tra Pisa e Washington, perché c'è la scoperta, pare ne abbiano verificata questa volta, delle onde di gravità. Pensa che Alfano, quando ha letto l'annuncio onde di gravità, si è preoccupato, dice: cacchio, avvisi di garanzia per il mio partito. Poi dice: no, le increspature spazio-temporali sono create solo da grandi masse. Allora Alfano ha detto: vabbè, allora noi NCD non ci riguarda, non le abbiamo. Vabbè, oggi hai messo NCD nel mirino, evviva. Allora, no, citi Alfano. Tra l'altro, noi oggi, cari ascoltatori, vogliamo parlare di una cosa che è molto seria e, come dici tu e sottolinei spesso, è incomprensibilmente assente nel dibattito pubblico dei giornali. A parte Repubblica ultimamente, negli ultimi giorni, ha parlato di quello che sta succedendo a Napoli con la nuove battaglie di camorra, nuovi morti, sparatorie. Tra l'altro, alle 5 di questa mattina hanno arrestato il comando del provinciale di Napoli, Alessandro Giannelli, ricercato come capo dell'omonimo gruppo emergente di camorra. La risposta qual è? La solita, che secondo me è un po' uno spot, Alfano: mandiamo l'esercito, che c'è già, rafforziamo l'esercito a Napoli. Noi dobbiamo fare stare zitte le pistole ed io ho deciso, l'ho anche detto al Presidente del Consiglio, che adesso a Napoli ci vuole l'esercito. A Napoli noi dobbiamo mandare i soldati. Ma a parte che ci sono 400 soldati, strade sicure. Io ho deciso, ho avvisato. Vabbè, il Ministro dell'Interno adesso. Cioè, adesso mandiamo l'esercito. Facciamo zittire le pistole. Ripeto, è la dimostrazione che quando si tratta di riorganizzare strutturalmente, perché la cosa di Napoli è figlia di decenni di trascuratezza, perché è un dramma, chi si occupa di queste cose sa come è evoluto nel tempo il fenomeno, oltre che Gamorra e vecchi casalesi, qua ci sono bande di ragazzi fuori controllo e la più grande spaccio, il più grande piazza di spaccio di cocaina in tutto il sud Europa, eccetera. Eppure non se ne parla. Qui, bravo, non se ne parla. Allora, siamo a due morti ammazzati a settimana, tre in 24 ore venerdì. Di fronte a questo, mandare l'esercito invece di una ristrutturazione radicale delle forze dell'ordine, di chi può agire come polizia giudiziaria, l'esercito non può farlo e così via. È l'atto di più colossale abdicazione che un ministro dell'interno possa fare rispetto ai suoi doveri. Oppure è un atto, vogliamo dire così, spettacolare, perché chiaramente il vedere vedere la potenza dell'immagine, vedere che ne so, le camionette, l'esercito. I militari professionisti li addestriamo per tutt'altro, non sì. per quello che non possono fare mandandoli sono lì. Sono d'accordo con te che piazza. La camorra si sconfigge. Il ministro dell'interno deve invece dare risposte radicate nel tempo e radicali nel mettere forze di polizia vere nelle piazze al servizio delle indagini e dei procuratori e così via. Mandare un po' di militari, purtroppo, che si deprimono perché vengono addestrati peraltro a essere esposti come simboli nelle piazze, significa non sapere fare il proprio dovere. Sì, forse la camorra deve essere combattuta anche mettendola come primo punto all'agenda, la lotta alla criminalità, no. a tutto tondo, a 360 gradi, non certo con queste manovre. Comunque il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha risposto così. La lotta alla camorra lo fa l'esercito democratico della nostra città, lo facciamo noi ogni giorno, lo fanno i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, i magistrati e la gente per bene. Per la lotta alla camorra non serve la militarizzazione della nostra città. A proposito di legalità, un po' in politica, diciamo, no, lo facciamo noi come però, sempre. Però secondo me su questo, sul contestare il fatto che l'esercito certo. contrasti la camorra, sono d'accordo con De Magistris. Però a proposito di legalità, questo anche qua per il momento è solo sui giornali di Napoli e della Campania, vediamo se quelli nazionali se ne accorgono, come è esplosa la Fittopoli romana, che va avanti perché il nostro grande mito tronca, nel frattempo passa Faldoni ogni giorno alla procura di Roma, truffa, abuso d'ufficio, cioè ci saranno retate dei dirigenti di Roma che hanno chiuso gli occhi per decenni. La stessa cosa è esplosa a Napoli, il mattino con una grande inchiesta tira fuori i numeri e mi dispiace dirlo caro sindaco De Magistris, il comune di Napoli che con De Magistris sindaco ha voluto passare da una gestione privata a una gestione pubblica della gestione del patrimonio di oltre 67.000 alloggi e siti fini commerciali che appartengono al comune di Napoli a fine 2012, dal 2012 adesso ha dormito perché i dati non sono stati imputati, nessuno ha controllato chi sta in questi appartamenti, anche lì come a Roma almeno una novantina di milioni di canoni non riscossi, quindi di buco. Questa società che si chiama Napoli Servizi ha avuto il bilancio bocciato dal collegio dei sindaci, c'ha 1500 dipendenti, quadri diventati dirigenti senza bandi di concorso e che con 50.000 euro lordi l'anno però si portano a casa 150.000 euro in più di premio, più dell'amministratore delegato. Tutto questo per avere una situazione in cui in migliaia e migliaia di casi i canoni o sono di comodo, anche in quel caso 37 sedi di partito, 7 sedi di sindacato e così via, oppure non sono riscossi, oppure ci sono inquilini che non si sa che titolo stiano là dentro. È un problema, altro esempio problema... della mano pubblica che dice la legalità. I napoletani che pagano l'affitto, che pagano i mutui a canoni di mercato, cosa devono pensare a vedere un comune così disastrato che non sa gestire credo il suo che patrimonio? Sia, la questione generalizzata di Roma si è parlato, di Napoli appunto si sta parlando adesso. A Milano anche con l'Aler se ne è parlato, adesso non siamo come, razzisti. Come ha scritto Sergio Rizzo qualche giorno fa sul Corriere della Sera, ci sono casi a Catania, il 95% di persone in edifici pubblici non paga. Ma vedi è moroso, che poi quando quindi... io ce l'ho con lo Stato e dico cediamo questi... Però è una questione che riguarda tutta l'Italia. Ecco, ma la mano pubblica non è capace, perché a quel punto è più facile fare la clientela. Mi dispiace di Magistri, la lotta per la legalità si fa anche con una gestione trasparente ed efficace dei 67.000 unità immobiliari del comune. Comunque il numero per intervenire è il consueto, è 800 24 00 24, parliamo di questi temi ma come sempre poi parliamo di tutto quello che volete, perché volete parlare anche di Elton John a Sanremo, parliamo di Elton John a Sanremo, della televisione di Ansaldi, questa intervista fulmicotonica al Corriere della Sera. Ansaldi che caccia il direttore di Rai 1, il direttore di Rai 3, poi caccia la Leosini, poi caccia Giannini. Mi ha toccato la Leosini. Bianca Berlinguer, ti ha toccato la Leosini? Io sono un Leosiner, sai chi sono i Leosiners? Sì, gente che ha qualche problema. No, dai, sto scherzando. Quelli che ammirano il giornalismo di Franco. Questa Leosini. La seduttività della dama in nero. Delle storie maledette. Lei ha una sua seduttività. Comunque Ansaldi, diciamo che è un deputato del Partito Democratico, fortemente renziano. Che ascolta quello che dice Renzi e lo ripete dal suo. Fa questa intervista al Corriere della Sera nella quale dice: ci siamo sbagliati anche su Maggioni dall'orto, e Campo dall'Orto. Maggioni. Sono peggio di quelli di prima. Peggio di quelli di prima. Giannini, Ballarò, ma non lo licenziamo più. È stato licenziato dagli italiani. Fa ascolti imbarazzanti. Vianello, la Berlinguer. Il direttore di Rai 1 a Sanremo invitano Gianni Garco che della concorrenza. Tutto sì, via. Sì. Tutto e dall'Orto e a Maggioni, zitti, muti, non parlano, non vedono. Fa un'intervista che dice: evidentemente voleva tirarci fuori dei macigni. Questi erano scarpe. Quelli della Leopolda che non erano i partiti. partiti che comandavano la RAI, come si vede, no? No, vabbè, a proposito del politico che quando mangia la torta non vuole più smettere, diventa diabetico. No, vabbè, comunque vedete, di Sanremo, a parte il fatto che dovete votare Enrico Ruggeri, che ha sicuramente questo la canzone migliore e deve vincere Sanremo, deve vincere. Il nostro Enrico Ruggeri, diciamolo, a parte questo, Saldi, magari lui ci può sono fare qualcosa. Le polemiche sulla presenza di Elton John, cioè non si è ancora presentato, non si sa cosa farà, ma basta dire che si presenterà forse col marito, forse non so, con una foto dei figli e via. E diventa un problema politico, a quel punto Alfano manda l'esercito pure a Sanremo. Ma poi fammi capire, scusa, perché in Parlamento votano in base a Elton John che si presenta, perché si vota in Parlamento, cioè come può influenzare i parlamentari e la legge Cirinnà la presenza di Elton John anche con suo marito? Ma ti pare te, influenza scusa, i parlamentari? Non mandano i tifosi del Napoli a Napoli Juve sabato, figurati se Elton John non influenza. Vabbè, arbitro in campo, per favore, attenti al rigore pro Juve, attento, io te lo dico da adesso. No, gli ho detto prima, dai Oscar, dilla in onda questa che danno un rigore dico, alla Juve. Figurati. Io solo per il fatto di avere fatto un gesto molto tranquillo e pacato dopo Juve-Barcellona di Champions League, lo sai che mi sono presentato in onda con la maglia del Barcellona. Ho fatto una cosa tranquilla, pacata. Sono stato subissato di insulti, io non mica ce l'ho con i juventini, mi levo il cappello di fronte al tifo juventino di quella grande squadra. Dico solo che a volte anche l'arbitro si leva il cappello. E no, l'arbitro siccome era vestito di nero, allora in bianco prende l'assegno in cambio del rigore. Noi si scherza. Prendetela come un gioco, un po' come amici. Oggi bellissimo questo scambio tra Paolo Mieli, direttore del Sole 24 ore, Roberto Napoletano, perché è di grande classe, perché i giornali ormai si vedono in due grandi categorie: quelli che dicono imponiamo ai tedeschi la grande svolta, ci dimentichiamo del nostro debito, del fatto che il cattivo credito delle banche viene da gestione delle banche conniventi coperte dai regolatori. Io la penso così, sono in minoranza. E per esempio Roberto, in questo, il direttore del Sole, sta facendo una campagna molto dura. Oggi c'è un editoriale in cui spiega: noi dobbiamo pretendere all'Europa che non siano più soluzioni tedesche, la parte eccedente del 60% del debito pubblico italiano deve essere messa in comune. Cioè, in parole povere, chiediamo che il 70% del PIL, visto che noi oltre il 60% ne abbiamo un altro 70% di debito, debba essere messo in comune e deve essere pagato anche ai tedeschi. Fossi tedesco lo accetteresti? Io no. E Paolo Mieli, direttore del Corriere, oggi fa un fondo che dice: ma insomma, carica ex direttore, è tornato a scrivere, hai ragione tu, sul Corriere di Fontana, scrive una cosa che dice: ma insomma, questi italiani dovrebbero ricordarsi dei propri debiti, di tutte le riforme che dicono di aver fatto e che hanno rinviato e così via. Questo dibattito è serio. Giorno in cui i mercati crollano anche oggi, Giappone meno 5. Allora, ci chiama Nicola da Napoli, buongiorno, proprio da Napoli, Nicola. Pronto? Eccoci, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto a Giannino e un saluto a te Milan. Eccoci, ti ascolto grazie. Sempre, pure se a volte non sono d'accordo mai con te, ma con Giannino sempre. Ah, allora è un guaio, posso certificarti che guaio. No, ma al di là di tutto, che ne pensi di questa roba dell'esercito? Allora, l'esercito, sinceramente, io ho l'opinione di Alfano identica a quella di Sgarbi e di Travaglio nei confronti di Alfano. Alfano non è proprio all'altezza per fare il ministero del tempo, assolutamente. Bisogna avere la possibilità di controllare i vari quartieri. Si sa le situazioni come sono organizzate qua a Napoli. Il quartiere specifico sa chi è, chi non è e chi trasgredisce la legge o organizza qualcosa di illecito, ma non si vuole intervenire. La presenza già c'è, ma non si vuole attivare. Lo Stato è assente, ma è assente da 150 anni, ok? Sì. Questa è la mia opinione. Grazie Giannino, grazie Milan. Grazie Nicola, grazie per il suo intervento. Oh, non è mai d'accordo con me. Se uno è sempre d'accordo con me ha un problema. Mai anche statisticamente esatto. È difficile, però Nicola ti abbraccio. L'effetto della mia captazio, ci sono tifosi del Napoli. Questo, c'è anche Marco, sempre da Napoli. Buongiorno Marco. Buongiorno. Senta, volevo intervenire sempre sull'esercito che Alfano voleva mandare a Napoli. Io credo che l'esercito qui serva a nulla, perché praticamente, secondo la mia idea, qui ci vuole una rivoluzione culturale, devono essere prima i cittadini a cambiare, devono essere le famiglie a cercare di dare un'educazione ai loro figli, questi piccolini che invece di andare a scuola adesso comprano le pistole, vanno in giro tipo gang di Gomorra e nessuno fa niente. Io penso che la prima rivoluzione, la prima cosa, la prima persona che deve intervenire è la famiglia, ma se la famiglia non se ne fotte nulla che cosa fanno questi ragazzi, ma l'esercito, ma che ci viene a fare? È chiaro che l'esercito interviene in una fase repressiva, non credo che Alfano voglia mandare l'esercito per fare una battaglia culturale. Però neanche in quella repressiva può intervenire. No, ma è chiaro, su questo si dibatte, ma sicuramente lo intende in questa, quando dice far silenziare le pistole, vuol dire che vuole intervenire in un'ultima fase. Ma lo silenzi con gli AR-70 dei militari, no, ecco, Marco. Credo che possa, invece di mandare l'esercito, che faccia in modo che queste leggi che ci sono vengano applicate, nel senso che se uno viene preso a rubare va in galera e ci sta quantomeno 2-3 anni, non è che poco dopo già lo ritroviamo fuori per continuare a delinquere. Io questo forse sarebbe meglio intervenire a questo punto di vista più che mandare l'esercito. Sì, credo. Va bene, la ringraziamo per questo intervento, Marco. Tra l'altro devo dire, c'è un ascoltatore che ci dice: ma perché non parlate del caso del professore Stefano Rò, licenziato? Perché guarda. Che è un veggente, sarà un ospite veggente nostro tra 5 minuti. Stefano Rò, il professore che è stato licenziato, guarda, a scuola, o è un veggente perché... o è dell'Agenzia delle Entrate che ci ha collegato. Si controllano nei flussi, controllano tutto. Comunque, su questo tema vedo che chiamano, ci fa piacere anche fuori da Napoli, perché poi è un tema che riguarda tutti. Giorgio ci chiama da Pisa, per esempio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Volevo fare due appunti veloci. Allora, l'esercito, prima di tutto, anche in zone di guerra, deve avere le regole di ingaggio e poi non può sparare a nessuno senza regole di ingaggio. Seconda cosa, lasciamo che questi camorristi si ammazzino tra di loro, così poi ce ne sarà meno da gestire. Classico. Ma sarà un po', è un po' populista. È tutta gentaccia. Giorgio, sai che ogni tanto ci va di mezzo, per esempio, qualcuno che passa, che magari non c'entrava niente, ragazzi, cioè, ragazzini, persone, no? Ci va di mezzo anche qualcuno che magari dice no, un'estorsione. Non è che si ammazzano solo tra di loro. Lei vivrebbe tranquillamente in una società in cui può passare per Pisa e magari in un quartiere di Pisa e gli arriva un colpo in testa e lei non c'entra niente. Ascoltate, anche l'Agenzia delle Entrate spara nel mucchio e fa tanti morti innocenti, capito? Vabbè. Allora, una piccola percentuale purtroppo è da mettere in conto in tutte le cose, nel bello e nel brutto. Quindi lei dice, facciamo raccoglieremo i cocci poi alla fine. Facciamoli 50, 50 sono gente per bene che muoiono, no. Allora, una piccolissima percentuale, può succedere. Come in guerra, perdite, danni collaterali, danni collaterali. Seguo il suo cinismo, mi permetti, un po' cinico mi permetta, Giorgio lo è. Però, insomma, è il suo parere, noi siamo aperti, no, Oscar? Noi dobbiamo ascoltare, se chiediamo a gente dobbiamo ascoltare. Attualmente dobbiamo anche radicalmente dire che... noi siamo per la legalità. In questo caso non la penso come lo Stato, non può dire assistere come se fosse solo dice sparatevi, altrimenti lo Stato non esiste. A cosa serve? Comunque, continuate a chiamarci su questo tema, su altri temi, anche se volete dirci che se ci sarà o no un rigore per la Juve. Che Oscar ha toccato un tasto, non lo sa, ma lo so. Però tenete conto che nel frattempo i comuni, 20 comuni del Vercellese, hanno chiesto allo Stato, perché da ottobre c'è questa ondata di rapine nelle ville la notte, eccetera, hanno chiesto al prefetto, dice: guardate, noi rendiamo omaggio allo Stato, sappiamo che siete in pochi, però qui ci dovete mandare l'esercito. E sono andati dal prefetto, il prefetto, che è una prefettessa per così dire, li ha ricevuti e con istruzioni d'Alfano ha detto: guardate, noi non abbiamo qui da mandarvi niente, quindi come si fa? E i sindaci a questo punto hanno il problema, perché i loro amministratori dicono: beh, allora noi per difenderci ci armiamo. I sindaci provano a dirgli: no, non dovete farlo. E contemporaneamente dicono: cosa possiamo dire ai nostri? Quindi l'Italia è diventata un paese singolare oramai, tra mandare l'esercito a Napoli, dove c'è già... Da Bitonci, il sindaco di Padova. Mamma mia, che abbiamo ospitato. Capisci che è un paese in cui alla fine il segnale che si diamo è armatevi, è un segnale della bandiera bianca. Comunque, state con noi, pochi minuti di pubblicità e poi rientriamo. Mattino. Ci siamo. Eccoci tornati. 8:41 minuti, caro Oscar. E allora gli ascoltatori chiamano, continuano a chiamare su questo tema, ma noi vogliamo anche introdurre un ospite e parlare di questa storia che è un po' kafkiana, lo è, no? Come no. Perché sai che è un po' difficile licenziare un dipendente pubblico nel nostro paese, soprattutto tranne che capita poi per i motivi più incredibili. Più incredibili, come il caso del nostro ospite che è Stefano Ro, che salutiamo. Buongiorno e benvenuto, Ro. Buongiorno. Insegnante di filosofia, giusto? Per 15 anni, esatto, a scuola di Bergamo e provincia. La sua storia è stata raccontata da tanti, ma Gian Antonio Stella ne ha scritto una pagina sul Corriere della Sera. In pratica, la riassumo così per gli ascoltatori. Lei, licenziato l'11 gennaio dalla scuola, perché aveva messo una croce quando è stato assunto sulla casella in cui dichiarava di non aver riportato mai condanne penali, anche perché lei condanne penali non ne ha mai avute, no? Tutto a posto. Ma sì, ho avuto una condanna di fronte al giudice di pace a pagare un'ammenda di 200 euro. 200 condanna. Euro? Sì, perché esatto. nel 2005 è stato condannato perché lei qualche tempo prima, alle 2 di notte, in un paesino a Verara, non sapeva più trattenere la pipì, ha fatto la pipì in un cespuglio. Questo è il lato di fatto. Proprio così. E quindi ha preso questa multa. Lei, quando ha scritto di non aver condanne penali, se l'era dimenticata questa multa, evidentemente? Era... No, me la ricordavo, era qualcosa di lontano, ma al di là di quello il problema è che nel casellario che lo stesso Stato, cioè nella sedina penale che il casellario giudiziale mi rilascia, quella condanna non compare. Non compare. E però l'hanno accusata quello... di che cosa? Di aver mentito, evidentemente. No? L'hanno accusata di aver mentito. Sì, di aver mentito, licenziato. Cioè lei è stato licenziato in tronco, ci spieghi un po'. Sì, sì, a me è stato notificato il provvedimento quando sono rientrato a scuola dopo un periodo di malattia e sono stato licenziato con effetto immediato, radiato dalle graduatorie e quindi di fatto escluso completamente da tutta la possibilità, dalla possibilità di continuare a fare questo lavoro anche in futuro. Radiato dalle graduatorie. Ma adesso che cosa avverrà secondo lei? Il provvedimento resta così? Oppure di fronte al dibattito pubblico che mi pare inequivocabilmente favorevole, anche la mobilitazione lei... abbiamo visto anche i ragazzi del liceo dire pubblicamente insomma come la pensano sui suoi anni di insegnamento e così via, che cosa possiamo immaginare che avvenga? Ci sarà un ripensamento oppure tutto resta così? Lo Stato si è pronunciato come Minosse, il giudice infernale? A parte, come dire, il percorso in tribunale, che spero mi dia ragione, perché comunque nel mio caso specifico c'è margine, però la mia situazione, forse anche perché è grottesca e per l'appoggio che ha avuto, ha scoperchiato un po' il vaso di Pandora, perché di fatto qui c'è un problema di norma, perché nel pubblico ci sono, nel pubblico in particolare nella scuola, in particolare a Bergamo, i casi come il mio sembrano essere moltissimi. Persone che rimangono a casa perché hanno dimenticato, o meglio, non hanno riportato, in quanto non compare sulla pedina penale che hanno a disposizione, reati magari datati 30 anni, come l'aver emesso un assegno postdatato, rubato un CD a 18 anni, quindi è una cosa abbastanza folle. Io spero che, come dire, venga ripresa in mano la norma, al di là del mio singolo caso, perché certo. si trova ad avere licenziamenti con effetto immediato per motivi, come dire, del tutto non attinenti alla professione che poi uno va a svolgere, mentre in altri casi no, ma anche perché mi perdoni, Roma, ci sono casi, ce ne siamo anche occupati, di invece, lo devo dire, anche di insegnanti accusati di pedofilia, di insegnanti accusati di atti sessuali nei confronti dei loro sottoposti, diciamo così, in questo caso bisogna usare questa parola, e spesso si dice, beh, ma non c'è una sentenza definitiva, non c'è una condanna, non c'è, quindi, cioè c'è molta cautela in alcuni casi. Qui lo Stato, la mannaia dello Stato è caduta impietosa, ecco. Se facciamo un altro esempio che ha ben altre conseguenze Stefano Ro non ha prodotto un danno né a uno studente né a un collega né a una suppletta della pubblica, niente. Non la tratteneva più alle due di notte, esatto, non la appena, un cespuglio, dice, un cespuglio. Ha evitato un danno alla sua vescica, ecco, tanti anni fa. Però noi abbiamo letto settimane fa, ripeto, di 7.000 dipendenti pubblici sleali che con i loro reati accertate la Guardia di Finanza, sì, hanno creato un buco stimato in 4 miliardi, esatto, di euro, miliardi di euro. E di quei 7.000 nessuno rientra nei 212 licenziati di due anni fa. Questo per dare un'idea a chi ci ascolta della inaccettabile sproporzione, ma è una sproporzione siderale, cioè le cose di ma cui stiamo parlando. Lei, Stefano Ro, come si sente? Un po' il capro espiatorio da una parte, dall'altra parte dice, non lo so, forse il suo caso emblematico per tirar fuori un problema, anche se lei poi lo subisce, perché so che, se non sbaglio, ha tre figli, insomma, ha una vita da portare avanti, no? Come si sente? Ma mi sento, diciamo, vittima della burocrazia un po' acefala in questo caso, perché possiamo dire filosoficamente che lo stato etico di Hegel le dimostra che è un po' malfondata come te, perché lo stato etico di Hegel diventa lo stato del cappotto e del naso di Gogol. Questa è la mia idea, cioè può tutto ma alla fine diventa una beffarda e grottesca incapacità di saper distinguere i casi, proprio perché crede di potere tutto. Io la metto un po' in filosofia, no, lei visto la insegna, lei però la insegna la filosofia. Ma tra l'altro in prima istanza il dirigente scolastico qui dell'ufficio territoriale di Bergamo ha applicato la norma, come dire, in maniera sensata, dandomi una sanzione leggera della censura, cioè riconoscendo il falso innocuo e la mancanza di dolo. E poi invece il mio contratto non è stato registrato alla Ragioneria dello Stato, che ha contestato all'ufficio scolastico di non aver applicato in maniera regolare la norma. La norma. E quindi ha chiamato in campo la Corte dei Conti. Che la Corte dei Conti, pensa alla Ragioneria, la sì. Corte dei Conti. Ma la mia sensazione è che lei si è incappato in qualche zelante burocrate che ha detto basta, bisogna dare basta Gogol. Quelli che in Italia pensano di farla sì. franca, questi dipendenti pubblici che pensano di farla franca. E lei è finito, insomma, nelle maglie di qualche zelante burocrate che appunto ha fatto partire questo procedimento che poi ha portato delle situazioni veramente paradossali. Ricordiamo, Stefano Ro è licenziato non tanto per aver fatto pipì in un luogo pubblico, ma perché non ha menzionato una multa che aveva ricevuto, che servivano a estinguere in passato amministrativamente queste cose. Però io avrei voluto vedere la sua faccia quando le è stato comunicato, cioè quando lei ha letto per avere fatto pensato pipì, a uno scherzo, esatto, cioè a che ha pensato? Ma sono rimasto basito. Diciamo che in realtà l'ultimo provvedimento l'ho letto come esito di un percorso che si era aperto nel 2013, quindi la prima volta che mi è stato notificato il provvedimento sono veramente trasecolato. Dopodiché non è che me lo aspettassi, però sapevo che pendeva questa spada di Damocle. Rischiava. No, ma tanto io... l'assurdità. Non si capisce come mai l'amministrazione pubblica chieda a noi di dichiarare condanne che non sono assolutamente ostative, per cui non hanno alcuna attinenza con il lavoro, e che vada a licenziare quando queste condanne comunque sono dichiarate in buona fede perché non presenti sulla sedina penale e totalmente ininfluenti rispetto certo. alla possibilità di ottenere il beneficio, per cui è proprio un po'. Certo, però perché lo Stato normografo è normomane, è incapace di normare in maniera normale, no, questa è la mia... No, tra l'altro mi sembra di capire, per concludere, caro professor Ro, noi lo chiamiamo ancora professore, Ro, certo. anche se lei è stato radiato, che il fatto di essere stato radiato potrà far riaprire la sua vicenda, non so sulla base di quali presupposti, se non il fatto che qualcuno si renda conto dell'assurdità della vicenda. No, sulla base del presupposto che questa norma, che prevede doverosamente sanziona se uno non cita condanne che non sono né nella fedina né ostative per illegale allora non doveva essere neanche licenziato in base a questo. No, va cambiata la norma. Allora, sulla norma si può da una parte fare appunto, andare in Cassazione. Finché non cambia la norma. Anche in Cassazione, senza la Corte Costituzionale su questo può dare un'interpretazione. Insomma, lei ha speranza di poter tornare in cattedra. E anche il Consiglio di Stato dal punto di vista amministrativo. Quindi, secondo me, i presupposti di diritto ci sono tutti. Certo, significa però per Stefano Rova aspettare. Nel frattempo lui i soldi non li vede. No, perché oggi sul giornale c'è la notizia di un insegnante assunto di ruolo a 65 anni, tra due mesi va in pensione. Capito. Ecco, non vorremmo augurarle una trafila del comunque, genere. Noi siamo qua come avvocati, ombudsman di Stefano Ro, esatto. E ogni tanto lo sentiamo e ci dice poi che cosa come esatto, sta ci tenga aggiornato, almeno questo, no? Per quello... Va benissimo, io spero che questo cancan metta luce su questa questione mia e di generale. Altra gente. No, ma è chiaro, è chiaro. La petizione che ha raccolto un sacco di voti, per cui spero abbia un senso. No, ma io credo anche, ma voglio dire, l'imbarazzo che lei ha dovuto affrontare di fronte ai suoi studenti che di colpo hanno scoperto che lei è stato radiato. Come se fosse. Cioè, ma sono quelle cose che uno dice, ma come fai a spiegarla poi, no? No. Che una vicenda del genere. Poi il danno sulla credibilità personale te lo porta è indietro. Chiaro, è chiaro. Ro, la ringraziamo, ci tenga aggiornato e in bocca al lupo ovviamente, speriamo che si ponga una soluzione a questa. Vedi le follie di questo Stato che non sa neanche lui più che norme applicare. Poi qualcuno dice oggi mi sveglio brunetta, tu hai fatto pipì fuori. Sentiamo, Lucrezia ci chiama da Roma. Lucrezia, buongiorno. Sì, buongiorno, brevemente volevo dire, viviamo in uno stato assurdo, premesso che tutte le volte che io vedo qualcuno fare pipì in mezzo alla strada a qualsiasi ora del giorno e della notte, passo con la macchina vicino e suono. Sono d'accordo. Perché è vergognoso. Certo. E sono sempre soltanto uomini, ma oggi con tutte le sentenze di maestre che mettono le mani addosso ai bambini e che vengono semplicemente spostate da una scuola all'altra, si fanno forse qualche mese di arresto domiciliare e poi vengono reinserite in un'altra struttura, noi andiamo a licenziare un professore perché ha fatto alle 2 di notte pipì in mezzo alla strada e si è dimenticato di dirlo. Si è dimenticato di dirlo. Allora, se i giudici devono semplicemente applicare alla sentenza la legge senza un minimo di discernimento personale, vuol dire che possono essere tranquillamente sostituiti dal computer. No, no, ma in questo caso non c'entra neanche un giudice. Qui è il superiore amministrativo, non è il giudice. Sì, esatto. Se è il giudice di pace, hanno pagato come una multa, 200 euro. Che lui l'ha pagata quella qui multa. Qui non è un giudice, qui è il responsabile amministrativo, il dirigente amministrativo della sua amministrazione. Dice, lei ha mentito. Lei ha mentito. E quindi fuori. Ci dispiace per Enzo da Napoli, lo recuperiamo domani se possibile. Qua hai toccato il tasto Juve, ma ha scritto mio fratello Juventino, sciacquatevi la bocca prima di parlare della Juve, Giovanni, mio fratello Giovanni. E ovviamente auguri per Juve Napoli. Dice che prima di pronunciare la Juve bisogna sciacquatevi la bocca tu e Oscar. Per evitare che un dicendo Juventus c'ha i batteri che ti restano. No, credevo di aver capito. No. Sto scherzando, ovviamente. Sto scherzando. Si scherza, ma il calcio è una cosa seria. Come Sanremo, non si scherza. No, questa votate Ruggeri. Settimana tragica. Sanremo e Juventus Napoli. A domani. Ecco perché.